Siamo arrivati a un punto di non ritorno. I dipendenti del comune di Bologna stanno soffrendo una condizione mai vista prima. Abbiamo il fronte del salario che è troppo basso ormai. I dipendenti dei comuni hanno oggi le buste paghe medie più leggere di tutta la pubblica amministrazione. Quindi serve un rimporto per provare innanzitutto a bloccare l'esodo che spinge molti lavoratori a spostarsi in rami dell'amministrazione meno avarie, sono ad esempio le funzioni centrali. E dall'altro ad essere più attrattivi rispetto a quelli che sono i giovani e che fanno sempre più fatica a partecipare ai concorsi pubblici, perché vivere in una città cara come Bologna, è chiaro che con uno stipendio così basso si scelgono altri tipi di concorsi. Oggi di fatto siamo di fronte a una situazione che, a fronte di una cornice nazionale pesante che vede il non rinnovo del contratto nazionale, una norma nazionale che permette ai comuni di derogare al tetto del fondo del salario accessorio fermo a 9 anni fa, al 2016. Questa norma nazionale che cosa ci dice? Che i comuni possono investire una quota pari al 48% del monte salari del 2023 per la parte stabile e ricorrente del fondo, cioè una parte che consente poi di finanziare anche nei successivi anni, non solo quest'anno, l'aumento. Quindi, a fronte del fatto che noi abbiamo chiesto l'applicazione del decreto legge 25 del 2025 già nel marzo del 2025, l'amministrazione ha proposto una cifra irrisoria di 1 milione di euro a fronte di una cifra che potrebbe investire di 25 milioni di euro. Non abbiamo ancora la certezza che sarà discussa in sede di variazione di bilancio, il limite ultimo è il 15 di novembre, quindi arriviamo ad oggi a una tale incertezza complessiva e potrebbe paradossalmente non finanziare nulla, tutto quello che la norma nazionale consentirebbe di finanziare, quel fondo che ti dicevo prima. Che cos'è secondo voi che sta impedendo al comune di Bologna di aumentare questo fondo e che cos'è che provoca questa incertezza? È chiaro che questo finanziamento è a carico dei singoli bilanci degli enti locali. In un meccanismo normativo complesso che vede la ricerca del compromesso fra l'impegno a ridurre quello spread retributivo che ti dicevo fra comuni, quindi enti locali e funzioni centrali, e dall'altro l'esigenza di non aprire delle falle nei saldi di finanza pubblica. I vincoli di sostenibilità finanziaria di bilancio che rimandano a una vecchia legge di bilancio del 2007, inderogabile, mette dei vincoli sia sulle capacità funzionali, ma anche su quelle che sono appunto delle norme di sostenibilità finanziaria dei bilanci degli enti. E poi c'è la prudenza che viene messa in campo dall'amministrazione comunale rispetto al fatto che l'aumento di quest'anno, come ti dicevo, dovrà essere strutturale, quindi applicato anche negli anni successivi. Vero è che il bilancio del comune di Bologna, almeno del 2024, si è chiuso con entrate e spese di competenza per circa 1,062 miliardi di euro. A fronte di questa cifra enorme, noi chiediamo che ci sia un aumento sensibile di quei 2 milioni di euro, perché al momento, facendo la media del pollo, si tratterebbe di poco più di 30 euro lordi pro capite al mese. Quali sarebbero i settori che sentirebbero le conseguenze più gravi di questo mancato aumento? Tutti, nessuno escluso, perché si parla di salario accessorio che va a colpire le tasche di tutti i dipendenti. Quando parli di produttività, parli di una quota che è destinata a tutte le lavoratrici e i lavoratori del Comune di Bologna, in maniera diversa, riproporzionata rispetto alle aree economiche di appartenenza, ma è comunque un plus che va a incidere sulle tasche di tutti i dipendenti.